scoperta, però diciamo che diamo un po' per tutta la parte teorica. E due note di servizio, chiudiamo stasera, come abbiamo detto questa sera abbiamo l'ultimo incontro. Poi, come ben sapete, il percorso che io ho pensato assieme alla Casa del Tempo è fatto di 4 moduli in 5 mesi, quindi l'anno prossimo vi verranno date per il quarto modulo, il terzo modulo che è il quarto mese, che è l'incontro con l'ombra, e quindi un lavoro per incontrare proprio queste parti e per incontrarle con un metodo, in modo che non siano parti che ci travolgono. E quindi studieremo assieme il concetto di ombra, il concetto di inconscio, cercheremo di capire che cos'è secondo la psicologia buddista, ma soprattutto cosa ne hanno, come ne hanno parlato gli psicologi occidentali. Ritorniamo un po' più verso di noi. Ultimo modulo, il quarto del quinto mese, è sul karma. Quindi lì capiremo invece come agisce la legge di causa e effetto, e quindi ciò che mettiamo in moto poi torna in un modo che in qualche maniera circolare, quindi ciò che mettiamo in moto in qualche maniera torna verso di noi, e capiremo come agisce e soprattutto cosa ci dice la psicologia buddista per quanto riguarda un possibile non crearne più di negativo e addirittura di provare a sciogliere quello pregresso, ok? Penso sia una roba abbastanza importante, soprattutto se... Volevo chiederti una cosa, no? Come? Volevo chiederti una cosa. Sì. Ecco, mi pareva che tu facessi riferimento anche a Jung, che è un psicanalista. Sì, sì, certo. Ecco, c'è qualche testo, io lo conosco ma non mi piace, sì, tantissimo, sì. Ma non lo conosco a fondo come Freud. Sì. C'è qualche testo che puoi consigliare? Beh, Archetipi, sicuramente gli Archetipi è un testo fondamentale che io consiglio, perché non è molto corposo, ma c'è una grande sintesi del suo pensiero lì, sicuramente. Poi di altro, anche quello sul mito e i sogni, di cui adesso non ricordo il titolo, perché l'ho letto tanti anni fa. Lui ha scritto un testo specifico sul mito e i sogni, anche quello è un testo secondo me fondamentale. E poi ha scritto un testo meraviglioso, che quello l'ho letto recentemente, un paio d'anni fa. Penso sia, magari se mi ricordi, metto i titoli sul gruppo, perché questo è un testo estremamente interessante, ed è stato uno degli ultimissimi che ha scritto, una specie di biografia, che però è molto interessante, non solo perché lui parla di se stesso e della sua vita, ma anche di come è arrivato a raggiungere certe intuizioni. E secondo me, almeno per il mio modo di studiare questi personaggi, è molto interessante. Beh, il libro rosso però è inavvicinabile. È difficilissimo. Oltre inavvicinabile anche economicamente. Sì, ma questo in biblioteca si trova. Ah, in biblioteca si trova. Una biblioteca che, sì, ce l'hanno abbastanza. No, perché comprarlo mi pare che costi sopra i 100 euro, se non sbaglio. Sì, sì. Il libro rosso è un po'... degli estratti, si, sì, riescono a capire, insomma, però resta tutto. Però è veramente difficile, molto difficile da avvicinare. Io non lo proporrei per chi vuole conoscere il personaggio. No, non voglio testi difficili. No, questo... questi... sono andata fuori di testa, anche perché ho fatto analisi, ho frequentato, okay, per 20 anni, ma erano veramente impossibili, non li, sì, voglio più vedere. Freud, secondo me, ha avuto il grande merito di aprire il vaso, sì, di Pandora. Esatto. E però anche il demerito di aver, come posso dire, portato alla deriva tutto il percorso della psiche su 2 o 3 punti, sì, sì, discutibili, sì, direi discutibili. Jung invece, che era un suo allievo, si è portato su cose più, sì, sì, legate al mondo, sì, nel suo insieme, sì. Invece Freud era troppo tradizionalista, certo, secondo me, certo, ed è rimasto in quella posizione perché era il dio Freud. Ma d'altronde lui veniva fuori da quell'epoca vettoriana, che c'era ancora quando lui... Quella grande visione un po' riduzionistica, e lui da lì un po' ha preso e ha aperto questa strada, però è innegabile che abbia aperto una strada molto interessante. Ecco, meglio ancora secondo me di Jung, ma questa è una mia idea, ci sono personaggi come Assagioli, ad esempio. Assagioli secondo me è stato proprio il vertice di quella piramide, meglio ancora di lui. Va bene. Massaggioli, metti anche questo. Sì, sì. Sì, sì. Massaggioli assolutamente, perché cosa avevo veneziano? Il merito di se non sbaglio, di Assaggioli è stato quello di coniugare tutta la visione della psicologia junghiana, quindi in qualche modo l'inizio della transpersonale, con tutto il mondo orientale, perché lui era completamente dentro alla parte teosofica e antroposofica, e avendo unito i due mondi, ha trovato, secondo me, una visione meravigliosa che è la psicosintesi. Ah sì, psicosintesi. La psicosintesi, secondo me, è proprio è un connubio eccezionale, eccezionale da questo punto di vista. E un testo che io vi caldeggerei è di un allievo per linea diretta di Assaggioli, è Crescere di Ferrucci. Un bellissimo testo. Ma io dimentico tanto i testi che leggo, perché ne leggo tanti, portate pazienza. Però se mi ricordi io... Allora facciamo un po' di pratica assieme e poi affrontiamo Upekka, affrontiamo il termine di Ferrucci. È abbastanza complicata, insomma, però cercherò di... Allora, non ci stendiamo, facciamo una pratica da seduti. Facciamo una pratica da seduti, tutta guidata, una pratica di gratitudine per questo percorso fatto finora assieme, per il periodo che ci aspetta e speriamo sia abbastanza di serenità e pace. Vi guiderò io, quindi sarà tutta guidata. Cerchiamo proprio di inoltrarci un po' nella nostra pratica. Quindi, come siamo soliti fare, la schiena è sufficientemente diritta, mento lievemente abbassato, le mani in grembo sul ginocchio, come siamo soliti. Facciamo qualche respiro più profondo, cercando di liberarci attraverso l'espirazione anche di pensieri, emozioni, tutto ciò che ci portiamo dalla giornata. Proviamo, se c'è possibile, di lasciarlo un po' fuori e di dedicare un po' di tempo a noi. E poi piano piano, lentamente, lasciamo che la nostra attenzione si appoggi al ritmo del respiro, come ormai è nostra abitudine. Lasciamo che sia il respiro a guidare la nostra attenzione. Il ritmo del respiro è un ottimo amico, è un ottimo compagno di pratica. Ci è sufficiente osservarlo e lui ci guida a trovare centratura, armonia, un po' di pace. Piano piano non ci accorgeremo che la mente si fa un po' più pacata, un po' più serena, e piano piano anche i pensieri, le distrazioni tendono ad andare sullo sfondo, quasi a scomparire. E quindi possiamo prendere un po' di tempo per noi, perché meditare è un po' una cura. cerco di osservare con attenzione il respiro, facendo in modo che le distrazioni, la mente agitata, non possano disarmonizzarmi, non possano portarmi lontano, ma semplicemente stare sul corpo e sul respiro. E ad ogni espirazione, quando l'aria esce dal corpo, cerco proprio di rilassare, di lasciare andare, di abbandonare. Se avvertiamo tensioni nel corpo, possiamo avvicinare la mente al punto ed espirando proviamo a sciogliere, proviamo a lasciare andare. Ed ora che il corpo e la mente si sono un po' tranquillizzati, la mente si è fatta un po' meno abitata di pensieri, cerchiamo di coltivare un pensiero di pace, un pensiero di gratitudine. Lo facciamo attraverso la gentilezza amorevole, cominciando da noi stessi. Quindi possiamo rivolgerci una frase, un'invocazione, un augurio che rivolgiamo a noi stessi per trovare armonia. Possa io essere in pace. Possa io essere in salute. Possa io essere lontano da ogni pericolo. Possa io vivere felicemente. Cerco di trovare pace e gratitudine, alimentando con questi pensieri l'apertura del mio cuore. Ed ora rivolgo questo stesso augurio al compagno che ho a fianco. Auguro al mio compagno di sentiero, che con me ha condiviso queste esperienze, di essere in pace. Possa tu essere in pace. Possa tu essere in salute. Possa tu essere lontano da ogni pericolo. Possa tu vivere felicemente. È un augurio che sgorga dal cuore, con la profonda sincerità di augurare veramente che il mio compagno di viaggio possa vivere in pace e felicemente. Ed ora possiamo rivolgere lo stesso augurio a tutti i compagni di questo percorso, a tutti i compagni che in questi mesi hanno meditato assieme a noi, con cui ci siamo confrontati, con cui stiamo condividendo un tratto del sentiero. È una grande ricchezza poter condividere alcuni passi sul sentiero spirituale con altre persone che come noi sono alla ricerca. E di questo dobbiamo essere grati. Possiate voi essere in pace. Possiate essere in salute. Possiate essere lontani da ogni pericolo. Possiate voi vivere felicemente. Cercando di alimentare questa gratitudine e questo contatto donato dalla gentilezza amorevole, rimaniamo per un po' in silenzio, in raccoglimento, fino a quando non vi richiamerò. tempo necessario e piano piano, quando ci sentiamo, possiamo riaprire gli occhi. Accendo una luce. Com'è andata? Non tutti assieme, perché si com'è lavorare con la gratitudine così che dobbiamo lavorare? Bene, no? Arricchente, spero. Fa prendere anche le misure, nel senso che a volte noi giustamente anche no, ci lamentiamo, le cose vanno male, c'è sempre più difficoltà, questo è vero, però ci fa prendere un po' le misure anche, no? E ci fa accorgere di quanto abbiamo anche, insomma, abbiamo tanto, ci sono tante difficoltà, ma abbiamo anche tanto, no? A cominciare, non so, dalla salute ad esempio, abbiamo un buon grado di salute, questo non è così scontato, insomma, no? Abbiamo un letto dove dormire. Magari metà della popolazione del pianeta difficilmente ce l'ha, no? Un tetto sopra la testa, cioè, non è così scontato. Mangiamo, facciamo così ed esce l'acqua potabile, qualcosa che, cioè, diamo per scontato, invece ci sono persone che per avere l'anfora sopra la testa fanno 2 chilometri e 2 chilometri a tornare. In questi 2 chilometri non si sa chi incontra, no? Cioè, è bene ogni tanto riprendere le misure, no? E secondo me i Brahma Vihara ci aiutano anche in questo. Va bene. Però, scusa, quello che è tipo come hai detto, no? Apriamo un rubinetto, diamo tutte queste comodità, no? Qua vai anche da fare benzina, sua macchina, per venire qua, no? E crea un rubinamento. Sì, due che cazzo c'è, e dopo che c'è altro aspetto che dice questa donna che fa l'anfora adesso una testa e che se fa 10 km per l'attore l'acqua, certo. Ma chi sei che puoi dire chi che veramente soffre? Perché va di una visione, non parlavo di sofferenza, infatti. Ah, ecco, sì, no, parlavo di prendere le misure su ciò che abbiamo realmente. Noi abbiamo una base di comodità che ci permette di fare questo tipo di cose, cioè trovarci a meditare. Ma sappiamo bene che c'è una grandissima quantità di nostri simili in cui l'ultimo dei pensieri è quello di meditare, perché prima devono sopravvivere. Quindi il meditare arriverà fra 50 vite, ok? È solo su questo la riflessione, ecco, sì, non sulla sofferenza. Qui sono d'accordo. Allora, 2 notti di servizio. Il 28 di questo mese c'è una conferenza alla quale mi piacerebbe che qualcuno di voi fosse presente, se avete voglia, se non siete in giro a montagna a sciare da qualche parte. E, insomma, le ferie assolutamente vanno prese, soprattutto a queste festività, ma se avete tempo il 28, perché siete tutte persone in cammino, e quella sera cercherò di dare un po' il mio punto di vista su che cosa vuol dire, che cos'è un sentiero spirituale e come sceglierlo sostanzialmente, no? Chiaramente non è un discorso esaustivo, nel senso che sarà un discorso aperto, ma vi darò un po' la mia visione su qual è, insomma, su come dovrebbe essere visto un sentiero spirituale e un po' di parametri per cercare di imboccarne uno che abbia un senso, visto che ormai anche in questo ambiente un po' ha ragione, un po' ha torto. fatto, non bisogna mai buttare via tutto per non buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si dice. È diventato un po' un supermercato anche questo della spiritualità, e invece ci sono cose, alcuni parametri secondo me molto seri che vanno tenuti in considerazione se ci si ritiene persone in cammino, altrimenti no, non è necessario. Cioè, non è scritto da nessuna parte che bisogna fare gli spirituali a tutti i costi. Seconda cosa, noi ripartiremo, adesso il calendario non è ancora fatto, ma ripartiremo penso la terza settimana di gennaio, tra la seconda e la terza, bisogna vedere qua un po' con tutta l'organizzazione, quindi vi arriveranno le date e tutto quanto. A fine gennaio ho una serata di presentazione del mio ultimo libro, se qualcuno è interessato, ma lì si cambia completamente genere e anche tematiche. Va bene. Allora, chiuse le notazioni. Scusa, sarà sempre di giovedì? Sempre di giovedì. La parentesi lunedì, che è stata fatta qualche mese fa, era solo perché si erano incastrati due gruppi e il lunedì si era liberato, è stata proprio una congiunzione astrale. Saranno tutti sempre di quattro serate, sia per quanto riguarda l'incontro con l'ombra, sia per quanto riguarda il karma. Poi, se qualcuno di voi vorrà continuare, io ogni tanto propongo delle giornate tematiche, tipo tutta una domenica o mezza domenica, in cui si affronta un tema specifico, ma allora magari vi arriva la mail e se avete voglia partecipate, così si va ad affrontare dei temi più specifici, perché a mio modo di vedere, insomma, i temi sarebbero tantissimi, ma una volta che hai affrontato questo raggio, la base, gentilezza amorevole, la parte oscura, diciamo così, e il concetto del karma, hai tutte le carte in regola proprio per fare qualsiasi tipo di percorso, anche con altri insegnanti, insomma. Secondo me, questa è la mia riflessione, poi sicuramente sarà carente in qualche punto, ma per ora non me ne preoccupo. Allora, l'equanimità. Allora, per tagliare la testa al toro, perché ogni volta che affronto la questione dell'equanimità, mi trovo più o meno sempre con tutta una serie di discrepanze e questioni che escono, spero che usciranno anche stasera, perché l'importante è che l'equanimità upecca, la quarta, la sfumatura dell'amore nella visione dei Brahmavihara, dei quattro Brahmavihara, è l'ultima tradizionalmente, ma come vi ho già detto è quella più fondante, particolare, fondamentale, radicale, su cui si fondano tutte le altre. Questa sera mi avvalgo dell'aiuto di uno di cui si può assolutamente tirare su, che è Corrado Pensa, che ogni tanto me l'avete probabilmente sentito nominare, ed è uno dei più profondi conoscitori italiani della meditazione Vipassana, e soprattutto ha speso tanto della sua, ha speso nel senso che adesso un po' si è ritirato, ancora vivo, fa ancora qualcosa, ma molto meno rispetto a una volta, soprattutto mi pare in centro Italia. Lui era molto presente all'Istituto Lamazon Kappa in Toscana, adesso mi sfugge il nome del posto, e lui si è occupato molto di tutta la questione della gentilezza amorevole, ha scritto anche molto, ha tenuto anche tanti seminari, e devo dire che leggendo i suoi testi io, ed essendo stato allievo di un suo diretto discepolo, mi trovo d'accordo molto sul suo modo di portare, sul modo che lui ha utilizzato per portare i Brahmavihara in Occidente, perché c'è sempre da fare il conto con una certa differenza tra la mente occidentale e la mente orientale. Io ringrazio tantissimo quei maestri, quegli insegnanti che hanno preso quell'insegnamento e hanno saputo riformularlo per noi, perché se noi lo prendessimo così com'è sarebbe veramente tanto difficile per noi, sarebbe, io penso che i testi originali per noi sarebbero solo oggetto di studio, ma difficilmente potremmo entrare in quel tenore, in quel tono di insegnamento, di visione della vita. Quindi insomma, quei maestri che hanno saputo portarli qua, portare qua quel tipo di insegnamento, vanno ringraziati sempre. L'equanimità, Questo ve lo leggo integralmente, quindi portate in pazienza, poi magari vi metto anche sul gruppo, ma lo leggiamo assieme proprio perché questo chiarisce molto, ci dà un e poi rimane anche giusto registrato, per cui uno si può anche riascoltare i pezzi. L'equanimità è l'opposto dell'attaccamento, è non attaccamento, è una dimensione determinante del sentiero interiore, determinante. Ovviamente esistono diversi gradi di equanimità, ma anche un'aspirazione, una sincera aspirazione verso di essa è già un inizio della vera equanimità. Dunque, l'equanimità è l'anima del lavoro interiore, il cuore del sentiero, il cuore della realizzazione e dell'adempimento. Sentite che enfasi mette su questa parte. Quasi qui esula tutto lo studio di Brahmavihara. Secondo pensa, io sono assolutamente convinto, qui stiamo parlando di proprio del nocciolo da cui nasce il sentiero, cioè il coltivare questa saggezza, questa equanimità, questa equidistanza, questa capacità di vedere il mondo per quello che è, non per quello che noi vorremmo fosse. È una enorme difficoltà, enorme, ma il lavoro nasce da lì. Io sono molto molto vicino alla sua visione. L'equanimità è l'anima della presenza mentale che chiamiamo consapevolezza non giudicante, cioè una consapevolezza che tende all'equanimità. L'equanimità è il cuore della saggezza. Non si può guardare in profondità senza l'intimo equilibrio dato dall'equanimità. E l'equanimità è anche il nucleo più profondo dell'amore, della compassione e della gioia empatica. Nell'insegnamento delle quattro dimore sublimi, il Brahmavihara, metta, gentilezza amorevole, karuna, compassione, mudita, gioia empatica, upekkha, l'equanimità, viene per ultima. È l'ultima ad essere insegnata, come per evidenziare che gli stati che la precedono, la gentilezza amorevole, la compassione e la gioia empatica, non sono autentici se sono privi di equanimità. Ecco perché io all'inizio vi ho detto, la teniamo per ultima, ma sappiate che è il fondamento. Cioè senza quella gli altri tre perdono forza. Rimangono sempre un pochino artefatti, artificiali, artificiosi. Rimane sempre una nota stonata. Prima di tutto va coltivato quella. Si possono fare tutte assieme, posso benissimo augurarmi di essere in pace, posso augurare al mio amico, al mio maestro, ai miei parenti, figli, quello che ho, di essere in salute, eccetera, eccetera, ma so che per una profonda comprensione dei quattro Brahmavihara l'equanimità va coltivata in maniera particolare. Se è assente l'equanimità, può un sentimento di amorevole gentilezza essere davvero incondizionato e privo di riserve? No, è impossibile. Non sarebbe equilibrato, quello che ho cercato appena adesso di dire. Si tratterebbe di una preferenza e non dell'apertura di cui si allude parlando di amorevole gentilezza o di gentilezza incondizionata. Non possiamo nemmeno essere sinceramente compassionevoli se al cuore della nostra compassione non c'è una reale presenza di equanimità. Saremo identificati con la sofferenza, proveremo dispiacere, amarezza, cordoglio o commiserazione. Ma tutto ciò non è compassione. La compassione è una grande forza perché è una combinazione di tenerezza e stabilità. Sentite che belle queste parole, sono pazzesche. È una commistione di tenerezza, cioè la compassione verso chi sta male, karuna, ma nel contempo di stabilità, cioè essere ben radicati. Perché altrimenti cadiamo nella sofferenza altrui, cadiamo nel commiserare l'altrui dolore, capite? C'è bisogno di stabilità e allora questa tenerezza è pura. Ho letto mille volte questi testi di Pensa, ma la sua lucidità mi fa sempre riflettere molto. La compassione è un grande ci si può appostare all'equanimità attraverso tre stadi, ma ogni stadio può essere praticato separatamente. Tre stadi. Primo stadio riguarda la fiducia-sfiducia. Se verifichiamo che c'è molto scoraggiamento, molta sfiducia in noi stessi, o una tendenza generalizzata alla sfiducia, è importante, prima di tutto, prenderci cura di questi sentimenti. Perché per praticare l'equanimità, per generare equanimità, per svilupparla, abbiamo bisogno di una base di grande fiducia. Altrimenti risulta impossibile. Dunque ci proponiamo di osservare con gentilezza le onde di sfiducia, le onde di scoraggiamento che generano disequilibrio e disorientamento e minano la nostra motivazione. Dobbiamo prenderci cura di queste onde di sfiducia, di autosvalutazione, di scoraggiamento e per prima cosa praticare meditazione. Lui dice Vipassana, ma basta la meditazione che abbiamo imparato noi. Percepiamo con gentilezza e se possibile con tenerezza la qualità di quest'onda di sfiducia. Cerchiamo veramente di incontrarla e di osservarla gentilmente. È una cosa che facciamo raramente e alla quale non siamo affatto allenati. O ci lasciamo sommergere dallo scoraggiamento e dalla sfiducia, o cerchiamo di respingerla e di non osservarla, vero? Sì. Questo è l'atteggiamento. Quello che ci viene questa qui è una terza via, più difficile ma molto più efficace. Mentre invece nella nostra pratica è essenziale entrare in contatto, in intimità con questi sentimenti, lavorando seriamente a cambiare il nostro atteggiamento. Anziché rammaricarci con questi sentimenti, anziché rammaricarci di essere scoraggiati, anziché biasimarci per il nostro scoraggiamento, ci dedichiamo a osservare con gentilezza queste onde di sfiducia e non dobbiamo esitare a infondere quanta più gentilezza possiamo, a insinuare un tocco delicato, lieve e tenero. È un atteggiamento completamente diverso di fronte alla sfiducia e allo scoraggiamento. Un atteggiamento che scardina alle radici l'identificazione, quello su cui stiamo lavorando da mesi, ossia la nostra radicata tendenza a credere ciecamente ai pensieri e alle conclusioni della sfiducia e dello scoraggiamento. Dunque, io trovo che questo sia un lavoro essenziale se vogliamo costruire fondamenta che ci permettano di lavorare in maniera fruttuosa allo sviluppo dell'equanimità. Infatti, quando attivamente abbracciamo lo scoraggiamento e la fiducia, succede che, almeno in parte, essi perdano il potere che hanno su di noi. Perdono il potere. Ci sentiamo più liberi, anche se forse le onde di scoraggiamento ci fanno ancora male. Tuttavia, avvertiamo che ora possiamo intraprendere il cammino per sviluppare l'equanimità. Questo primo passaggio è abbastanza chiaro? Ci mandi questo qui? Questo lo mando integralmente. Okay. Va letto, ascoltato, questo è chiaro. Ma mi interessa che intanto un quadro generale. Poi non ascoltate quella voce che vi dice ma sta roba è impossibile. Perché lo so che ce l'avete nella testa adesso. Appena avuta. Lo so che c'è, nella testa c'è, perché è giusto che appaia. Ma cosa si fa quando appare la sfiducia e lo scoraggiamento? Siamo lì. Non è che è qui la roba. Qui non conta niente, butta. È qui. E siccome questa voce, questo è anche un testo che la richiama, siamo vicini, questo è il lavoro che stiamo cercando di fare, non c'è niente di e non dobbiamo prendere le misure, fare è impossibile, non ce la farò mai, sono un incapace, non faccio fatica anche a stare con le gambe incrociate. No, tutta questa parte qui è mente. Tutto quello che cerchiamo invece è di entrare in contatto. Secondo stadio. Allora, passiamo ora a quello che potremmo chiamare il secondo stadio, ma che può essere anche il primo, nel senso che abbiamo detto che queste cose vanno lavorate separatamente anche. Si può creare un processo, ma io sinceramente vi chiederei, se mai vi metterete a lavorare su queste cose, vi dico, è veramente interessante, anche perché vi conoscete e cominciate a trasformarvi, si può fare una o l'altra. Che può essere anche il primo, nel senso che si può lavorare anche come prima fase. Se non dobbiamo lavorare preliminarmente allo scoraggiamento e alla sfiducia, il secondo stadio consiste nel portare la nostra capacità di osservazione sempre più salda, sempre più gentile, su qualsiasi reattività, su qualsiasi atteggiamento opposto all'equanimità, su qualsiasi momento di avversione o di attaccamento. In fondo questo è il lavoro che stiamo facendo dal primo giorno che ci siamo incontrati, giusto? Siamo d'accordo su questo? Se no, mi faccio la chiri, non sono stato in grado di spiegare niente. Cioè, è questo il corso che stiamo facendo. Sì. Spero che sia una roba, ecco, compresa, perché è questo il lavoro della meditazione, è tutto qui, solo che abbiamo introdotto anche una qualità gentile. Abbiamo lavorato per 2 mesi dicendo osserviamola, stiamo ad osservarla, la accogliamo, ci disidentifichiamo. Ora in questo mese abbiamo introdotto una tratta gentile, non la osserviamo come per dire stai là che io sto qua, ti accolgo, sei una parte di me, con te sto, possa io essere in pace, possa essere lontano da quello, ma se arriva il pericolo, se arriva lo scoraggiamento, se arriva la sfiducia, mi ci avvicino, l'accolgo. Ok. Stavolta viene usato il termine di egoità, l'ego, no? Per sottolineare che il lavoro consiste nell'imparare ad osservare sempre di più, in modo sempre più accurato e sempre più disteso, importante questo, accurato, disteso, questo sorgere dell'io e del mio, che è pura pratica di vipassana, e la pratica di vipassana è pratica di equanimità. Cioè, cosa ci dice? Vi passano a sostituirlo pure con la nostra pratica di meditazione, che è molto simile fondamentalmente, non stiamo lavorando su cose diverse, anche se siamo ai primordi di una pratica come vi passano. Sostanzialmente l'equanimità, abbiamo detto che è una sorta di saggezza, no? Di equidistanza, di capacità di essere nel mondo così com'è. La meditazione lavora sostanzialmente su questo. Se abbiamo detto che tutto ciò che sorge in qualche modo è una parte a cui mi posso avvicinare, con cui posso stare e che non mi dovrebbe travolgere, stiamo lavorando sull'equanimità. Se lavoriamo in questo modo, rivolgiamo la nostra attenzione non violenta, in particolare all'area della reattività che è chiamata il nemico lontano. Lui qui adesso comincia a diventare un po' più tecnico. Abbiamo visto il nemico lontano e il nemico vicino. Quindi la reattività è il nemico lontano. Cosa significa? Se la pratica, come poi ci spiega nell'altra pagina, pensa, è un accogliere il mondo così com'è e non come così noi vorremmo fosse, o pretenderemmo forse, meglio ancora, se noi riusciamo ad accogliere, significa che in noi si abbassa la reattività, giusto? Collima questo ragionamento. Quindi, nel momento in cui sorge la reattività, so che sono nel nemico lontano dell'equanimità, sono in quello stato. E quindi cosa significa? Che per togliermi da quello stato devo lavorare per tornare nell'equilibrio che mi dà che mi dà UPECCA, l'equanimità. Ok? Il processo è quello che abbiamo appena detto. Che è il nemico antitetico, cioè il nemico lontano. Ma rivolgiamo l'osservazione anche ad ogni forma di indifferenza che è tradizionalmente invece chiamata il nemico prossimo o nemico vicino. Cosa vuol dire? Vuol dire che se invece sono nello stato contrario, cioè sento in me che non mi tocca per niente, non sono nell'equanimità, ma sono nell'indifferenza. Abbiamo detto che l'indifferenza è il nemico vicino perché gli assomiglia molto in atteggiamento, ma è privo di cuore, privo di calore. C'è freddo nell'indifferenza. Ricordiamoci che l'indifferenza è un indurimento, lo chiama lui, un'avversione congelata. E ricordandoci che non di rado, per lavorare con l'indifferenza è necessaria una buona capacità di investigazione, perché il nemico vicino si camuffa dal Brahmavihara, sembra lui. Quindi ci vuole una buona capacità di investigazione, mentre la reattività è il nemico lontano, sappiamo subito, perché si trasforma in odio magari, no? Si trasforma in cattiveria, si trasforma in questa cosa non l'accetterò mai, no, assolutamente, è facile da scovare il nemico lontano, il nemico vicino è un po' più difficile. Una cresciuta energia investe nella nostra motivazione, il nostro impegno, allorché cominciamo ad assaporare momenti di vera equanimità, assolutamente vero. Allora cominciamo a gustare la qualità speciale di libertà che si accompagna all'equanimità. Si tratta di un primo assaggio della nostra libertà interiore, che non dipende dalle condizioni esterne. È un profondissimo sollievo quando cominciamo ad assaporarla e la nostra motivazione per la pratica del Dharma cresce straordinariamente. Il Dharma qui è inteso come l'insegnamento, questo insegnamento. Più lavoriamo allo sviluppo dell'equanimità e più la parola rilassamento acquista un significato più vasto. Questa è una frase pazzesca, perché mai uno penserebbe al rilassamento. E invece qua la riflessione che fa, pensa, è sì, il rilassamento in effetti è uno stato fisico, noi lo viviamo come uno stato fisico, giusto o no? Sì. Quello che facciamo all'inizio, rilassiamo il corpo. Ma lui ci dice che il praticare l'equanimità, cioè raggiungere questo stato di saggezza profonda, dà alla parola rilassamento un orizzonte molto più vasto, perché tutto l'essere si rilassa, la mente si apre e accoglie. Siete più rilassati quando accogliete qualcuno o quando siete in reattività con qualcuno? È una frase stupida questa, no? Che non ha senso. Chiaro, quando si è in stato di accoglimento, perché non c'è solo il corpo rilassato, ma sentiamo anche la mente, i pensieri, le emozioni, tutto in qualche maniera si placa. Sì o no? Quindi lavorare sull'equanimità produce un essere rilassato. Ma noi lo abbiniamo ai muscoli, non c'entrano i muscoli. Tutto in noi si rilassa. Ed è una benedizione, vi assicuro. È una specie di accettazione. È proprio un'accettazione. È una forma, diciamo, più profonda ancora. Perché ha a che fare proprio col cuore. Comprendiamo cosa può essere un totale rilassamento, anche se solo per pochi istanti, perché in generale pensiamo al rilassamento come un fenomeno fisico, come ho appena detto io. Ma il rilassamento può essere sia fisico sia mentale, e può essere talora un'intuizione improvvisa e dirompente, perché forse siamo stati contratti senza saperlo. Guardate, questa è meravigliosa. Contratti senza saperlo. Noi passavamo per normalità quel costante presidio del nostro modo di essere, ma quel costante presidio, che in fondo non è che contrazione anche mentale, nel momento in cui lo rilassiamo diciamo: ah, ma allora si può vivere in un altro modo. E quando ti capita la prima volta dici: ma fin adesso, esatto. È sicuro che mi è capitato in un ritiro, ho detto proprio: ma fino adesso. E questa cosa è estremamente interessante, proprio perché la normalità vissuta fino a quel momento è una normalità che si può trasformare in un certo senso, cioè il nostro corpo ci dice guarda che sei contratto emotivamente e mentalmente. Il corpo è un grande, ve l'ho sempre detto, è un grande comunicatore, bisogna stare ad ascoltare. E allora ce lo dice con piccoli acciacchi, con difficoltà di digestione, con mal di schiena, con la testa che fa male, con eccetera, eccetera, eccetera. Anche piccole cose, i segnali ci sono. Ma noi siamo troppo abituati a stare in quella condizione e non diamo retta a queste robe. Prendiamo un po' di medicine, un po' di rimedi naturali, perché tanto dobbiamo andare avanti. Quello che invece ci insegnano queste pratiche è che si può stare in un altro modo. E quello stare in un altro modo, cioè mollare quelle tensioni, ti fa assaporare una cosa che non avevi mai vissuto prima. Vi interessa? Sento solo io l'entusiasmo. No, diciamo che si vive perché il mio entusiasmo è sempre così. Nella quasi beatitudine. Quasi, è un gradino quasi. Verso la beatitudine, è un gradino, è un gradino. Sì? La consapevolezza, adesso non so neanche formulare bene il pensiero, la consapevolezza di rendersi conto di come si era vissuto e poi percepire che c'è questa differenza sì. Nel prendere queste cose, a parte che con queste cose ci sia male, io mi sono malata. Perché io sono malata. Può capitare che prima di tutto si aprono dei blocchi energetici, no? Certo. Proprio in caso se ti torna in mente, fermami pure, anzi fermatemi pure, perché a me interessa. Parli delle beatitudine, dove sento i gatti alla 20. No, l'atteggiamento no. Beh, però di fondo è abbastanza vero, nel senso che non è la beatitudine in sé, ma si raggiunge quello stato di totale armonia col tutto passando per questi passaggi qua. E quella totale armonia col tutto ma la possiamo chiamare beatitudine. Allora, sì, diciamo che nell'osservazione nel vivere quotidiano, che no, perché la battaglia, c'è la famiglia, il lavoro, come che dove si fa sale, come che agisci così un canto e pugno a testa, sì, te scava. Allora, essere presente che il momento ha e invece farsi condizionare in maniera diversa proprio è il fatto che vedi tutti la cosa che fai con una donna. L'economia, no. Come si vede che è la parola, qui è del corso precedente. Cosa? Non so. Quando ti viene in mente poi ce la dici. Non accadente. Non te ne studia. Non accadente. Non accade. Ecco, quello che taglia la strada, ad esempio, magari è impossibile dire possa tu essere in pace con te stesso, ma si può cominciare col possa tu guidare un po' meglio, no? Andiamo per gradi, invece che maledire lui e tutta la sua famiglia e le cinque generazioni precedenti. Vieni più veloce, però. Certo, perché? Perché si chiama linea di minor resistenza, ne abbiamo parlato, e siccome noi usiamo sempre quella, quella linea di non resistenza non porta a nulla di nuovo. Non voglio convincerti, non vendo pignate. Allora, quella della strada o altre cose. Come? Io non ce l'ho quella della strada, ma Sì. Io ce l'ho, ho quella della strada in altre cose. In altre cose? Hai quella della strada, giusto? Che di fondo è lo stesso atteggiamento. Che però noi spostiamo io ho parlato della strada perché mi sembra più funziona dappertutto, cioè, così funziona dappertutto. La gentilezza amorevole, guarda caso il nome del corso che guarda caso è il titolo del corso, e questo un pochino mi deprime un po', ma poco però. Allora, andiamo avanti. Dai che viene tutto registrato, per me sono gente allegra, ce l'aiuta. Allora, più lavoriamo allo sviluppo dell'equanimità e più la parola rilassamento, eccetera, eccetera. e può essere talora un'intuizione improvvisa, dirompente, perché forse siamo stati incontrati senza saperlo. Per un'intera vita. E quando cominciamo di nuovo a gustare questo qualche momento di vera distensione mentale, che significa l'aprirsi del cuore, la forza di questa sensazione di sollievo ci fa letteralmente trasalire. Ci accorgiamo allora di quanta sofferenza crei la reattività, e più ce ne accorgiamo e più diventiamo non reattivi. Continuiamo ogni volta a verificare la qualità separativa della reattività e generiamo quello che in questa tradizione è chiamato sereno disincanto. Siamo sempre meno sedotti dalla nostra reattività, diventiamo più sereni. Sereno disincanto, meno ipnotizzati dall'io mio. Terzo stadio. Quello che chiamiamo il terzo stadio è la pratica specifica del Brahmavihara, basata sul pronunciare alcune frasi come negli altri Brahmavihara, secondo la tradizione buddista. Quando si pratica upekkha, l'equanimità, si porta alla mente qualcuno o se stessi. E si pronuncia prima di tutto questa frase. Se si vuole, non è che sia obbligatorio, però è bene tenere questa frase ben a fondo in se stessi. La tua felicità o infelicità non dipendono dai miei auspici, ma dalle tue intenzioni e dalle tue azioni. Questo è rivolto alla persona. Dunque, noi auguriamo di cuore qualcosa a qualcuno quando usiamo questo Brahmavihara, e ora vi dico quali frasi, ma dobbiamo anche avere la saggezza per comprendere che il nostro controllo sulle cose è molto, molto, molto limitato. E in questo consiste l'equilibrio di Becca, l'equilibrio dell'equanimità. Possiamo anche usare un genere di frasi diverso, purché abbia la stessa forza educativa, evocativa di equanimità. Cioè, lui ci dice, prima di utilizzare queste frasi, dobbiamo essere ben consapevoli che noi possiamo formulare questi auguri, però sapendo, e questo lo sapete fin dal primo giorno che abbiamo parlato di meditazione, ma soprattutto di quattro Brahmavihara, consapevoli che noi abbiamo un controllo estremamente limitato sulle cose. E quindi quando usiamo il possa io, il possiate voi o il possa tu, è perché poi la via che deve perseguire o deve praticare questa persona è una via a noi sconosciuta. Quindi possa tu essere lontano da ogni sofferenza, glielo auguriamo con tutto il cuore possibile, però sapendo che probabilmente lui la sofferenza la incontrerà comunque. E allora non è sbagliato l'augurio o sbagliato lui. È semplicemente che noi una parte della nostra vita è affidata a quello che, diciamo così, è il suo percorso karmico, chiamiamolo come vogliamo. Ok? Questa frase qua toglie molto il senso di colpa. Assolutamente sì. È fatta proprio per questo, perché in noi sorge spontaneo il senso di colpa, no? Sì, certo. E invece così la tua felicità o infelicità non dipendono dai miei auspici, ma dalle tue intenzioni e dalle tue azioni. Però io metterò, questo aggiungo io, però io metterò tutto il mio cuore per augurarti che tu possa essere felice, in pace, quello che diciamo sempre. Però al netto del fatto che io non posso incidere, e grazie a Dio, non incido nella tua vita. Te lo posso però augurare. Allora, possiamo pronunciare queste frasi, queste sono proprio le frasi di Upekkha, che tu possa accettare le cose così come sono, che tu possa accettare te stesso così come sei, che io possa accettarti così come sei, che io possa accettare me stesso così come sono. Bella difficoltà. Belle. Però tutti i giorni c'è anche un po' di che io possa accettarti così come sei. Posso accettare me, ma non lui. C'è qualcuno che magari dice posso accettare lui, ma non me. Sicuro. Oppure possa io accettare il mondo così com'è. Un bel lavoro. Chiaro, ma l'altro sono io rimane un po' a livello cognitivo, no? Cioè è una un escamotage mentale, ma è difficile identificarsi effettivamente con l'altro, soprattutto se l'altro è, come dicevamo, la persona che mi ha fatto stare male o le persone che mi hanno fatto stare male, no? Ma sì? Scusa. Mi avevano anche insegnato una frase simile che diceva così: Dio, perché si vuole, dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare. Sì, è Tommaso Moro. È una frase di Tommaso Moro. La forza di cambiare le cose, l'intelligenza di... Com'era? È una frase complicata, è fatta di tre frasi. Sì, esatto. Sì, di accettare le cose che posso dire, e poi c'era accettare le cose che non posso cambiare e la saggezza di distinguere tra le due. Esatto. E questa è in soldoni, sono un po' parafrasata. Però è vero, lui non conosceva sicuramente il Bruno Tommaso Moro, non conosceva il Bruno Viara. Se vi capita, leggete La vita di Tommaso Moro, ha avuto una vita pazzesca, pazzesca. È finito malissimo, ma aveva questa dirittura morale che gli permetteva di dire questo, no? Di dire dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare, di il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare e la saggezza di saper distinguere le une dalle altre. Sì. Ecco, questo avviene un po' meglio. Però questa è pura equanimità. Sì. Questa è pura equanimità. C'era scritta davanti. Sì, sì, ecco. Questa è pura equanimità. Però proviamo a pensare quanto distanti siamo da questo, no? Cioè, noi vorremmo cambiare tutte le cose che non ci piacciono, che rimanessero identiche, tutte quelle che ci piacciono. e sappiamo bene distinguere le une dalle altre. Quelle che non ci piacciono, vanno per i cazzi loro. Ma se non vogliamo, mai. No, però... Siamo sì, un po' capire. Sì, un po' del movimento. Però sì, sì, Tommaso Moro, italianizzato, perché non è italiano, Thomas Moro, ok. Il Buddha ha spesso sottolineato la forza di un'intenzione chiara. Ha sottolineato la forza di un'intenzione chiara. Queste frasi sono la formulazione di intenzioni chiare. La pratica dei Brahmavihara, in questo caso, la pratica di Upekkha, dell'equanimità, è basata sull'attenta ripetizione di una, due o tre di queste frasi. Si tratta di concentrarsi sulla ripetizione interiore, la lenta e attenta ripetizione, quindi non è un mantra che si ripete non è questo. Lenta e attenta ripetizione di queste frasi, colme di significato, e di sostituire sempre e di nuovo alle proprie proliferazioni mentali queste chiare e positive intenzioni. È un lavoro profondo che si fa sulle intenzioni mentali e le proliferazioni, le chiamo così, quelle che io chiamo cascate concettuali, sono proprio questo sviarci da questo creare questo canale di intensità su queste frasi profonde. Ogni volta perdo il punto. Si può praticare Upekkha durante una seduta di meditazione, chiaro, seguendo questa sequenza. Si inizia da una persona neutra, che tu possa accettare le cose così come sono, che tu possa accettare te stesso così come sei, che io possa accettarti così come sei. Si prosegue quindi con un benefattore, lui qui ha saltato il verso se stessi, perché l'avevamo fatto prima, poi si fa la persona se stessi o il, lui mette dopo il benefattore, però diciamo non è così necessario seguire questa sequenza. Di solito si parte col benefattore proprio perché il benefattore è quello che ci apre un po'. L'abbiamo fatto per tutti i Brahmavihara. Nel caso dell'equanimità lui propone di partire prima dalla persona neutra, vedete, cambiando un pochino, però qui c'è massima libertà. Si prosegue quindi col benefattore, una persona cara a se stessi una persona con cui si è in difficoltà e poi tutti gli esseri si può anche saltare. Noi non facciamo pratiche con tutti gli esseri senzienti perché dietro lì c'è proprio la psicologia buddista. Si può praticare in modo formale durante una seduta o si può praticare in azione, e io personalmente raccomando vivamente la pratica in azione, in aggiunta alla pratica formale. Nell'ambito dei corsi di... Cosa vuol dire pratica in azione? Chiaramente in azione dice durante tutto il giorno, no? Se ci viene voglia di... il momento in cui ci viene voglia, proprio sentiamo che è il momento di... dire a noi stessi: possa tu accettare le cose così come sono, avendo lavorato magari per un bel po' di tempo sulla mia pratica meditativa, sui brahmavihara, sulla gentilezza amorevole di me stesso, soprattutto in momenti di difficoltà, possa io accettarmi così come sono, o accettare le cose così come sono, le situazioni così come sono, comincio a spostare il mio focus dalla reattività. Pensate a un momento lavorativo in cui sorge una difficoltà. Mi viene in mente? Con un collega, con un cliente, con un fornitore, col capo. Quando sorge questa cosa, parte la reattività. Ma è anche giusto che parta la reattività. Abbiamo sempre solo conosciuto quel canale, quella modalità, non ne abbiamo mai conosciuta un'altra. Ora loro, questa psicologia che ha 2500 anni, ce ne propongono un'altra. Sì, magari stai per un po' nella reattività e accogli questa reattività, ma appena un po' di tempo prova a lavorare sul brahmavihara. Possa io accettare le cose così come sono. Possa accettare questo momento così com'è. Tanta roba, eh? Cambia tutto. La prima volta non cambierà niente, perché dopo due minuti che dite questa roba, un minuto che dite questa roba, la prendo quell'altro per la collottola e lo butto fuori al terzo piano, ok? Va bene tutto, però mettiamo in conto di provare a cambiare atteggiamento, proprio perché, prima abbiamo visto, stando nella reattività sappiamo già qual è la strada. Togliendoci dalla reattività e praticando questa nuova modalità, abbiamo visto che i risultati dovrebbero essere diversi. Perché vi dico dovrebbero? Perché finché non ci passate esperienzialmente sono solo parole. Scritte là, ve le dico io, le riascoltate da lì, sono solo parole. Non fanno né bene né male. Però ora le sapete, prima non le sapevate, quindi c'è un po' di responsabilità. Allora, accettare quello che si è, come che si è così, accettare quello che c'è così com'è è una saggia rinuncia a tutto ciò che non c'è. Dunque l'accettazione, il lasciare andare, la saggezza, la compassione non sono che diverse facce della stessa cosa. C'è una qualità particolarmente lenitiva, non solo in uno stato mentale di equanimità pienamente sbocciata, ma, come già si diceva, anche in una tranquilla aspirazione all'equanimità. Cioè non solo quando si raggiunge quello stato, ma anche solo ad aspirare a quello stato, sorge questa qualità particolarmente lenitiva. Sapete cosa vuol dire lenitiva? Sì. Sì, è come un balsamo, no? Ci attenua i nostri dolori, le nostre sofferenze. Infatti, guarda, è curativa, è lenitiva, perché è un bisogno che costantemente reprimiamo e che costantemente soffochiamo. Quanta verità! E quando cominciamo a prenderci cura di questo bisogno, cominciamo a respirare veramente. Io proprio qui ho delle esperienze con degli allievi che hanno proprio vissuto alcuni di questi passaggi, anche molto piccoli, e sbloccando alcuni di questi blocchi, quindi trovando equanimità, che l'equanimità non la puoi avere immediatamente con tutto l'universo, chiaro, no? Questo penso sia chiaro, ma sbloccando certi blocchi con delle situazioni, con delle persone, con delle condizioni, con dei ricordi, sbloccando, a hanno proprio tirato un sospiro di sollievo. È come mi raccontavano anche in fase di condivisione, e fa, è come se si fosse sbloccato qualcosa che avevo sullo stomaco, quella pesantezza che però era diventata normalità. E nel momento in cui si è sciolto questo blocco, mi sono sentito più leggero e cioè proprio respiravo in maniera più profonda. Meraviglioso. E dal punto di vista energetico capita proprio questo, è come se ci fosse un grumo di energia. E questo scioglierlo attraverso queste pratiche libera un canale, come no? Quello che dicono molti maestri è che spesso noi, soprattutto noi occidentali, che facciamo questo tipo di vita che ci contrae sempre di più, anche fisicamente ci contrae sempre di più, perché siamo tenuti a tenere ritmi, modalità di vita molto molto pesanti, molto molto stressanti, quando vedono un occidentale, i maestri, soprattutto quelli orientali che arrivano da altre esperienze, dicono che è come se fossimo intasati, è come se fossimo che ci fossimo bloccati in tutta una serie di flussi energetici. Compressi. E anche un po' repressi, forse. E quando cominciamo a prenderci cura di questo bisogno, cominciamo a respirare veramente. Il potenziale all'interno, il potenziale è dentro di noi e vuole essere sviluppato, ci prega di essere sviluppato. È la nostra natura, la nostra vera natura. E uno dei miracoli della pratica è che ci risvegliamo sempre di più a questo potenziale che già possediamo e che ci chiede di essere sviluppato. Dunque, per concludere questa lunga lettura, che noi tutti si possa accettare noi stessi così come siamo, che possiamo accettare gli altri così come sono, che tutti gli esseri possano accettare se stessi e gli altri esseri così come sono. Sembra anche che ci sia una specie di passività, ma non lo è. No. Ecco, io lo so che non c'è, però mi chiedo, quando siamo passivi invece e quando siamo in questo stato? Allora, secondo me la passività è invece il contrario, cioè è proprio essere nella normale reattività. Perché? Perché lì siamo in una sorta di falsa zona comfort che ci permette di attivare dei meccanismi più o meno oliati e che però producono tensione, e noi scambiamo la tensione come non passività. Il non essere passivi è il reagire alla vita costantemente. Questo reagire alla vita però nei testi sacri viene visto come un navigare controcorrente, il continuare ad andare controcorrente. Invece in questi testi, quelli da cui anche pensa coglie, si dice stai nella corrente, ma stai vigile in questa corrente e osserva tutto quello che arriva. Stai con quello con cui vuoi stare e non stare con quello con cui non vuoi stare. E te cambi. Ed è completamente diverso. Invece la nostra costante reattività è perché continuiamo ad andare contro la vera natura che abbiamo dentro. E questa vera natura che abbiamo dentro ci prega di fermarci e di cominciare a guardare effettivamente come siamo. E la cominci ad essere più passivo, ma attivo. Attivamente in contatto con ciò che sei. Con quello, con la realtà vera, insomma. Sì, perché la passività invece è non osservare mai ciò che hai dentro, ma semplicemente reagire a ciò che viene da fuori. Questa è più passività. La sfiducia in se stessi, perché se tu non sai distinguere, no? Ti senti che fai fatica a distinguere pur capendo le reazioni che ti vengono rispetto, certo, alle cose, certo. Là bisogna lavorare sulla sfiducia in se stessi, riconoscere che quello che senti è reale, certo. Cioè è reale per te, e certo, quindi lo accetti. Sì, sì, ma certo, certo, d'accordo, d'accordo. Sì, sì. Allora, perplessità, beh, spero tante, immagino tante, però quello che vi chiedo, che vi ho chiesto fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati, è di darvi una possibilità. Magari darla anche a me, nel senso che se non la date a me non la date neanche a voi, ma di prendere in considerazione questa visione delle cose, perché è una visione molto diversa da come siamo abituati. e da come ci hanno abituati, ma che secondo questa visione è molto più efficace, perché è un percorso che scalino dopo scalino ci conduce alla libertà, una libertà vera però. Il concetto di libertà adesso non lo affrontiamo perché se no stiamo qua 4 giorni, ma una libertà vera nel senso che loro ci dicono: sei tanto in gabbia quanto più semplicemente reagisci a ciò che è fuori, perché è ciò che è fuori che ti comanda. Se tu reagisci solo a ciò che è fuori, è ciò che è fuori che ti comanda. Se invece tu torni, prendi contatto, trovi equilibrio, capisci che ciò che è fuori è solo stimolo e visione e riflesso di ciò che è dentro. Riequilibrando ciò che è dentro, si riequilibra anche ciò che è fuori. Ecco perché nell'equanimità si usa la frase: possa io accettare il mondo così com'è, che sembra una enormità, no? Grida vendetta, una cosa del genere, no? Perché dici: ma come? Il mondo, soprattutto in questo momento storico, è un mezzo disastro. Come si può dire: possa io accettare il mondo così com'è? Beh, concettualmente lo risolviamo in fretta, cioè il mondo che io ho in mente non è il mondo che esiste, ma il mondo che esiste è la sommatoria di tutti coloro che lo abitano, e non ci può essere un altro mondo. Ecco perché in alcuni testi è scritto: questo è il migliore dei mondi possibili, non il migliore dei mondi, il migliore dei mondi possibili. Cosa vuol dire? Che con questi ingredienti questa è la torta. Cioè non è che apri la parte del frigo, c'è un latte scaduto, un limone e vuoi fare la Sant'Onorè, non ce la fai, fai qualcos'altro, no? La famosa frase che c'è scritta in alcuni testi: se la vita ti dà limoni, fate una spremuta, no? Cioè, questo è il mondo perché è quello che... Allora, noi ne abbiamo in mente un altro, sì, ma è quello che abbiamo in mente noi, non quello che c'è. E quindi, da questo punto di vista, quando io posso accogliere e accettare il mondo così com'è, non è... Perché molti dicono: ma questa è una segnale di resa, no? Una resa incondizionata rispetto al mondo. No, abbiamo detto che si fa tutto ciò che è nelle nostre possibilità per portare nel mondo luce, con le nostre possibilità. Però ci togliamo dall'attaccamento, perché noi quando facciamo qualcosa vogliamo qualcosa in cambio. Giusto o no? Se io faccio una roba, voglio che accada qualcosa. Ma abbiamo detto che non abbiamo in mano le leve, il mondo va per una certa direzione. Ciò che noi possiamo fare è portare tutta la luce di cui siamo in grado in questo mondo, senza attaccarci al risultato, perché il risultato non è nelle nostre mani. E questo concetto porta a diventare un tutt'uno e non più alla divisione, alla separazione di... Il zio Caio Sempronio. Sono concetti che immagino un po' difficili da digerire, però datevi tempo, leggete questo, riascoltate la lettura, vi manderò anche un altro testo di pensa un po' più corto, poi io ho un sacco di materiale, magari se ne trovo altro ve lo metto anche a disposizione. Datevi del tempo perché sono concetti molto difficili, non sono difficili in sé, sono anche comprensibili, ma è il renderli vita, renderli esperienza che immagino uno colga alla distanza, no? È molto complicato, insomma, per il mondo in cui viviamo. Io queste cose un po' le so, però è difficile metterle in pratica. Come? Io queste cose un po' le so, non sì. Sono una novità per me, però è molto difficile. Io sto facendo dei percorsi di crescita da anni e ho preso delle decisioni rispetto a queste cose. Certo. Quando ho preso delle decisioni ho dovuto mettere in pratica le cose. Certo. È tanto difficile, però vedo che cambia posizione proprio anche gli altri nei miei confronti. Sì, sì. Però riconosco la difficoltà che io nel farle diventare... Beh, ma io penso sia di tutti, di chiunque questa difficoltà. Non lo so, non lo so. Però alla fine, come ti sarai sicuramente accorta, c'è proprio, si innesca un meccanismo relazionale diverso. Sì, sì, io vedo diverso. Anche nel silenzio, non occorre parlare. Anche l'ambiente in cui ti presenti, vai, eccetera, le persone hanno un atteggiamento diverso, senti c'è qualcosa di differente rispetto a prima. La qualità, sì, io la avverto tanto. Questo io non lo sento ancora. Vedo invece rispetto all'azione la diversità dell'altro che comunica delle cose che magari non avrei pensato perché io ho fatto la cosa che sentivo di fare, che era quella utile e giusta per vivere in un determinato modo. Ma questo accade perché noi abbiamo, adesso questo sembra una roba un po' UFO, ma accediamo a qualità di energie diverse. Queste qualità di energia diverse vengono sentite dall'altro essere al di là della parte mentale. Se ad esempio si instaura un silenzio tra le persone che non si devono subito dire chi sono, cosa fanno e quanto sono, da quanto sono in questo mondo, quanti soldi hanno e tutte queste robe qua che non hanno ragion d'essere, se si innesca un meccanismo invece di affinità, di ascoltare ciò che va al di là delle parole, i corpi e le entità sentono le qualità diverse e si creano delle relazioni molto differenti. C'è una frase bellissima di Zolla in un'intervista di Emir Zolla, che io reputo uno delle più grandi menti italiane del Novecento, e all'intervista gli dissero: ma le sue più importanti esperienze di vita, uno che ha girato il mondo, ha scritto tonnellate di libri, conosceva 6 lingue, una roba pazzesca, è stato dappertutto. Quali sono le sue esperienze più importanti, quelle che ha fatto, che l'hanno fatto trasformato di più nella vita? E lui ha risposto così, a una roba mi è rimasta scolpita, ha detto: ma a dire il vero, le esperienze più importanti della mia vita sono capitate tutte in epoca preverbale. Preverbale. Non mi ricordo neanche del verbale, cioè, ma per dire come, cioè, sono delle esperienze, se hai consapevolezza, il preverbale è molto importante, estremamente importante. Quante volte voi vi avvicinate a una persona che non conoscete e già sentite o affinità o repulsione? Capita spessissimo, no? Che poi magari può essere non essere così, cioè ci si parla e si vede che abbiamo sbagliato, ma molto spesso questa cosa poi si rivela proprio quella che è. Vabbè, facciamo un po' di pratica. Per favore mandaci tutta questa cosa. Io ho il file, lo metto così come. Sì, esatto. Così. Non ho perso niente. Allora, pratichiamo un pecca verso una persona cara, ok? Così ci accorgiamo delle differenze. Quindi vi chiedo di già pensare a una persona amica, no? Può essere un amico, un parente, qualcuno di vicino, come sappiamo, una persona in vita, naturalmente. Mi guido io per tutta la pratica. Bene, prendiamo posizione, come sempre sistemiamo bene i vestiti e tutto per vivere un po' di immobilità. Qualche respiro più profondo, cercando, come siamo soliti fare, di trovare centratura nei primi respiri, ma soprattutto di allontanare tutte le parti teoriche, le parole, per ora non hanno una grande importanza. Ora è importante la pratica, stare nell'esperienza. Qualche respiro più profondo. E cerchiamo di trovare un po' di centratura, un po' di pace. Diamoci un po' di tempo per trovare un po' di armonia nella pratica meditativa. Ed ora, piano piano, lentamente, portiamo alla nostra attenzione una persona cara, una persona che ci è vicina, a cui teniamo particolarmente. Può essere un amico, può essere un parente. Cerchiamo di portare a questa persona un augurio di saggezza, di equanimità. E lo facciamo attraverso una frase di Upekkha che cerchiamo di rivolgere a lui. Cuore aperto, pronunciandola mentalmente con grande attenzione e ascoltando cosa accade in noi mentre la pronunciamo. Possa tu accettarti così come sei. Possa tu accettare te stesso così come sei. Pronunciamo mentalmente questo augurio con grande cura, in totale ascolto di ciò che accade in noi quando la pronunciamo. Possiamo anche utilizzare un'altra frase di Upekkha. È un augurio che facciamo a noi stessi sempre in relazione a questa persona cara. Possa io accettarti così come sei. Che io possa accettarti così come sei. ed infine torniamo al respiro, cercando di ascoltare che qualità di interiori abbiamo raggiunto in questa pratica di pecca. Rimaniamo in ascolto del respiro, cercando di stare per qualche minuto in silenzio, ascoltandoci, fino a quando non mi richiamerò. Siamo soliti fare piano piano, fino a quando sentiamo di poter aprire gli occhi senza fretta. Come è andata? Facciamo, non abbiamo il tempo per un feedback completo, ma facciamo popcorn. Quindi se uno vuole condivide con i compagni di viaggio com'è stata questa pratica di pecca. Siete stracotti. Ho buttato giù un peso da una parte. Calato l'asso all'ultimo incontro. Ho calato l'asso. Va bene, non vi voglio tediare ulteriormente. C'è stata qualche reazione, qualcosa che non è andato. Chi è stato un po' più in armonia con questa frase? Si è sentito bene? Si è andato il petto. Questa è una delle sensazioni che si avvertono proprio. soprattutto con una persona cara. Infatti non è difficile. No, l'abbiamo fatto proprio per questo, perché volevo farvi provare quella sensazione lenitiva, no? Mm. Però potrebbe anche essere sorta una, ad esempio, possa tu accettarti così come sei, se la persona che abbiamo scelto, una persona che ha un po' problematica con la vita, no? Che non si piace, che fa fatica, ecco, allora questo avrebbe magari messo in noi questo attrito, no? Lo sentiamo questo attrito, perché quando lo diciamo, possa tu accettarti così come sei, e sappiamo che questa persona magari si lamenta sempre, che non si piace, non si vuole bene, eccetera, eccetera, può anche riflettersi su di noi, no? Se invece di fronte abbiamo una persona abbastanza pacifica, pacata, questa cosa ci apre e questa sensazione lenitiva la sentiamo su di noi. Chi invece ha avuto proprio un rifiuto, oppure l'indifferenza, è sorta l'indifferenza? Più indifferenza. Sapete che sono i tre campi di lavoro, sono sempre quelli: repulsione, attaccamento e indifferenza. Va bene, possiamo dare per conclusa la serata, perché vi vedo abbastanza sul cotto andate. Vi auguro buone feste. Grazie. Fate praticare tutti quelli che conoscete. Al veglione di Natale, anche quello dell'ultimo anno, 5 minuti di respiro, così vi mandano via. Fuori. E noi ci si rivede con chi vuole, se chi ha voglia di continuare, ci si rivede. Beh, chi di voi viene al 28, lo rivedo volentieri, così mi vedrete in un'altra veste. Alle 8:30, 20:30, qui siamo su in Saletta, Salona Nieve, quella grande dove si fanno degli incontri.